wa mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi. Sì, siamo prontissimi, buon pomeriggio a tutti da Gio Telesforo, siete in contatto con il soundcheck di Radio 24 e siete in contatto con la St. Louis College of Music di Roma, dove ci troviamo in questo momento proprio per incontrare il direttore della St. Louis, che è diventata una vera e propria istituzione negli ultimi anni per quel che riguarda la didattica e non solo la didattica musicale. Quindi buon pomeriggio al direttore del St. Louis College of Music, Stefano Mastruzzi, benvenuto al soundcheck di Radio 24. Ciao a tutti. Ecco, allora Stefano, io sono felicissimo di tornare alla St. Louis, credo, non so, di essere stato forse l'ultima volta più o meno una quindicina di anni fa, quando era già una scuola di musica e quando si facevano anche dei bei concerti. Ricordo ancora in attività il nostro sassofonista Massimo Urbani, ricordo un grandissimo movimento di musicisti, ma negli ultimi anni il College St. Louis, come dicevo, è diventato un'istituzione, perché ogni anno più o meno 1500 allievi arrivano da tutta Italia, non solo da tutta Italia. Come siamo riusciti a portare tutti questi giovani musicisti in questa scuola così importante a Roma? Beh, non è stato semplice, abbiamo iniziato tantissimi anni fa, la scuola è nata nel 76 e io sono arrivato qui nel 98, però per tantissimi anni è stata un jazz club la sera, dove tantissimi artisti italiani, per cui anche te, siete passati in quel magico club che ha visto di tutto, da Chet Baker a Pat Metheny, i più grandi del jazz internazionale, e di giorno invece era una scuola di jazz. Poi piano piano la scuola è cresciuta molto e chiaramente ha avuto anche acquisito una sua autonomia. Io arrivato qui nel 98, era invece un periodo un po' più di crisi per il jazz. In quel momento la scuola aveva più o meno 87-90 iscritti, lo ricordo con molta precisione, perché era un'avventura tutta da ricostruire, non dico da zero, ma è stata una bella sfida. Oggi appunto abbiamo più di 1500 allievi, tre sedi molto grandi, più di 32 aule, e stiamo aprendo una quarta sede sempre qui nel Rione Monti, proprio al centro di Roma. La didattica si è sviluppata tantissimo, non solo in direzione del jazz ma anche della popular music, e la più grande soddisfazione quest'anno è aver avuto da parte del Ministero dell'Istruzione un riconoscimento straordinario. Infatti siamo la prima e unica istituzione in Italia che può rilasciare diplomi parificati a quelli del conservatorio, però nel jazz e nella popular music. Quindi significa che se non avete la possibilità di potervi iscrivere e di accedere ai conservatori facendo il triennio di jazz, senz'altro, se ci fossero ancora dei posti disponibili, probabilmente potete richiedere e fare domanda alla St. Louis College of Music, e quindi alla fine del periodo dei tre anni la St. Louis vi rilascia un attestato che a tutti gli effetti ha un suo valore. Sì, esattamente il valore del diploma di conservatorio, che oggi è parificato a una laurea di primo e secondo livello, e infatti lo rilascia direttamente il Ministero dell'Istruzione. Ecco, c'è un'altra conquista importante quest'anno che riguarda l'Erasmus. Sì, questo è importantissimo, perché da tantissimi anni con il St. Louis lavoriamo con tantissimi conservatori esteri, ancora prima del riconoscimento, perché questo grande sviluppo si è avuto per una qualità intrinseca dei corsi. È chiaro che nel momento in cui questi tantissimi ragazzi frequentano la scuola e non c'è un titolo riconosciuto, fino a 2-3 anni fa, vuol dire che effettivamente c'è un progetto importante alle spalle, perché parliamoci chiaro, nella musica conta quello che sai fare, non tanto il pezzo di carta. E il progetto Erasmus ci porterà appunto in Europa tantissimi nostri ragazzi, e noi ospiteremo tantissimi ragazzi musicisti da tutta Europa per tutto l'anno accademico. Ecco, quindi esposizione anche per il College St. Louis College of Music di Roma sul mercato internazionale con la didattica e con i suoi talenti. Allora, visto che parliamo di talenti, direi di fare una piccola pausa con le nostre chiacchiere per ascoltare musica, e ti vorrei far ascoltare, se non lo conosci, questo cantante di Chicago, già allievo di Kurt Elling, che è concittadino di Kurt Elling, si chiama Sakel Vasandani, sta andando molto bene nel jazz contemporaneo, conosce la tradizione, un disco che si intitola I Fly, pubblicato l'anno scorso. Il brano è una sua composizione che si intitola Summer No School, quindi d'estate non si va a scuola, ma qui si studia musica. E quindi breve pausa con Sakel Vasandani al soundcheck di Radio 24. Dressed in blue, sunlight passes through you. Forgot my somehow I found you in the crowd. Time moves slow now. Sakel Vasandani, Summer No School al Soundcheck di Radio 24. Siamo ospiti di Stefano Mastruzzi della bellissima St. Louis College of Music, puntata del Soundcheck tutta dedicata alla didattica, a questa scuola di musica strepitosa. Was looking in my mirror, took me by surprise. I can't help but see you running up through my mind. A baby, sensual disguise. Eh sì, parliamo di didattica oggi, visto che siamo ospiti della St. Louis College of Music di Roma. Lo abbiamo detto, 1500 iscritti, e chissà se dalla St. Louis College of Music sono già usciti o usciranno talenti strepitosi come quello di Esperanza Spalding, che qui ci ha proposto la sua versione di I Can't Help It, un vecchio successo di Michael Jackson, ma una composizione di Stevie Wonder. Allora, Stefano Mastruzzi, direttore del St. Louis, è riuscito a portare tantissimi appassionati di musica, tantissimi giovani musicisti, e anche a trasformare questa sede che si dedicava soltanto alla didattica in uno studio di registrazione, in una fucina di nuovi talenti, e quindi organizzando anche management, ufficio stampa, insomma tutto quello che può servire a una struttura che fa musica per affrontare lo show business. Come mai? Beh, senz'altro tutte queste attività di cui parli sono fondamentali per una istituzione. Non si può solamente dedicare alla didattica, ma bisogna pensare anche poi al mondo del lavoro e a tutto quello che può esserci dopo lo studio della musica, e dove possa appunto, come dire, liberarsi e trovare gli artisti che possano avere una carriera vera e propria. Di questi 1500 allievi sicuramente non tutti faranno effettivamente questo mestiere, diciamo una percentuale piccola, diciamo saranno 30-40 ragazzi l'anno. Ecco, quindi tu già lo sai, arrivano, si iscrivono in 1500, poi a diventare dei musicisti non saranno poi tutti, anche perché ci leverebbero il lavoro, no? Sarebbe una concorrenza spietata, il paese è piccolo. E quindi dobbiamo contenere i numeri. No, ma a parte... no, però il talento lo riconosci subito, no? Quando arriva. Sicuramente si capisce già chi riuscirà a fare questa strada, chi è determinato. Oltre al talento serve, come ben sai, anche una grande determinazione, perché no, anche un pizzico di fortuna non fa mai male. Però la cosa importante è che fare formazione musicale anche per tutti quelli che non faranno musicisti è importantissimo, perché saranno poi quelli che andranno ai concerti, e quello che manca in Italia è proprio una formazione di base, e la musica arriva ancora troppo tardi. Mentre invece se ci fosse un'educazione prima, anche il pubblico del jazz, ma anche di tutti i vari linguaggi musicali, sarebbe maggiore, sarebbe più consapevole. Ecco, abbiamo detto che alla St. Louis c'è anche uno studio di registrazione che ha a disposizione non solo degli allievi, ma anche dei musicisti che poi vogliono realizzare le loro produzioni qui da voi. È uno studio nel quale St. Louis produce anche delle operazioni discografiche che poi distribuisce con una sua etichetta, giusto? Giusto, sì, in realtà abbiamo un'etichetta con tre collane discografiche: una Jazz Collection, che è rivolta essenzialmente al jazz, abbiamo prodotto tantissimi dischi, e un'altra che si chiama Urban 49, che invece si occupa di progetti più indirizzati verso il mondo pop, della popular music, però sempre d'autore, insomma ricercata, non facciamo progetti discografici da talent show, ma insomma seguiamo un po' la filosofia della scuola anche nelle nostre etichette. E l'altra collana è la Camilla Record, che è appena nata, dove invece facciamo delle coproduzioni con gli artisti, anche quelle più strampalate, più d'avanguardia, oppure più che magari non hanno un vero e proprio sembra che non abbiano un vero e proprio sbocco immediato, invece ce l'hanno. Ad esempio il disco che abbiamo prodotto di Natalio Mangalavita è straordinario. Ecco, andare alla ricerca di queste piccole chicche, di queste piccole realtà importanti, piccole per modo di dire, perché in realtà sono... Beh, sono importanti artisticamente, quindi vanno comunque supportate con un ufficio stampa e il lavoro adeguato. Certo, la discografia, lo sappiamo tutti, è in crisi, però bisogna spingere senz'altro sulla qualità. E c'è anche un trio che voi avete prodotto di grandissima qualità, che si chiama Radio Trio. Non so se ce lo vuoi presentare tu, lo facciamo ascoltare subito qui su Radio 24. Sì, loro sono Marco Siniscalco, Manuele Sbimmo e Enrico Zanisi. Enrico Zanisi è un giovanissimo talento che è cresciuto anche qui all'interno, e avrà 21-22 anni. anni, gli altri sono un po' meno giovani, ma è un disco straordinario che rivisita tantissimi classici, pezzi di brani di Bruce Springsteen in chiave jazzistica con la formula del trio, con sonorità molto molto moderne. E allora il brano infatti è Goodbye Stranger, un vecchio successo dei Supertramp per Radio Trio, prodotto proprio da St. Louis College of Music qui al Soundcheck. Oggi il soundcheck si è spostato proprio con tutta la bottega al St. Louis College of Music di Roma per indagare, per capire che cosa succede in una delle scuole più importanti d'Italia, ma il direttore Stefano Mastruzzi ci ha illustrato un po' tutte le varie attività. Abbiamo anche raccontato che si producono dei dischi di qualità per sostenere il talento anche di giovani allievi, come il caso della nostra amica che vorrei tu mi presentassi. Sì, certo, stiamo parlando di due artiste straordinarie che si chiamano Laura Lala e Shade Mangiaracina, siciliane, allieve di qualche anno fa, adesso sono delle vere e proprie professioniste, suonano in tantissimi festival in tutta Italia e non solo. Abbiamo prodotto il loro primo disco alcuni anni fa, quando vinsero un concorso internazionale, e questo secondo disco, frutto del lavoro loro con Alessandro Centofanti come produzione artistica, è un lavoro credo straordinario, quindi un lavoro importante nella discografia italiana, testi di altissimo livello, molto ricercati, e musicalmente è un disco tutto da ascoltare. Allora Laura, intanto complimenti, il disco l'ho sentito, è molto carino, molto piacevole, molto ben fatto, suonato bene con ottimi musicisti, e poi mi ha anche incuriosito molto una bellissima presentazione, in qualche momento anche romantica, di Danilo Rea, quindi complimenti, perché insomma Danilo ha buon gusto e ha colto nel segno. Quanto è stato importante frequentare questa scuola per la tua formazione di musicista? Allora, io vado un po' controcorrente, affermando che insomma le cose più importanti secondo me non si imparano a scuola, ma l'ha detto prima anche Stefano, però è necessario a volte essere seguiti all'interno di un percorso didattico, anche per diventare, essere pronti poi nel futuro a insegnare. Quindi sappiamo che a volte l'attività di un artista è parallelamente a altre strade, prende altre strade, in questo senso seguire un percorso didattico all'interno di una scuola sicuramente offre diverse chance. Ecco, diverse chance, e credo che sia anche importante il fatto di potersi confrontare con altri strepitosi musicisti in una scuola dove ci sono 1500 iscritti, dei talenti ci sono, quindi poi alla fine si formano delle piccole tribù con le quali convivere, con le quali crescere musicalmente. Assolutamente sì, quindi gli stimoli che vengono dagli insegnanti, gli stimoli che vengono dagli altri allievi ti aiutano a fare quella che poi è la tua strada, a scoprire qual è il tuo percorso. Allora, un album, non saprei definirlo musicalmente, certamente è ottima musica, spaziati un po' fra atmosfere jazz, pop e altro, testi tutti in italiano e anche in siciliano, e questa è una cosa bellissima, e il brano che avrei scelto per presentare questa produzione agli amici di Radio 24 si intitola Segreto, lo vuoi presentare tu? Allora, sono felice, mi hai fatto un complimento straordinario, il fatto che tu non riesca a definirlo musicalmente lo ritengo un gran complimento, perché in effetti la stessa difficoltà l'abbiamo trovata noi. Di Segreto che posso dirti, forse è il brano di cui posso dirti meno, perché appunto lo lascio che rimanga un segreto. Che ti aspetto per dormire, un segreto non è, lo rivelerò quando non piove, se mi aspetto che silenzio tu scrivo un romanzo da mille parole, e perché non dimentico, non dimentico, non dimentico. L'album si intitola Anche le briciole hanno un sapore. Naturalmente Laura Lala, quando vuoi vieni a trovarmi e magari ci facciamo anche una suonata dal vivo per far capire ancora meglio il vostro talento agli amici di Radio 24. Ti ringrazio, io e Shadè non vediamo l'ora, con un vero piacere, al più presto. E grazie anche a Stefano Mastruzzi. Stefano, direttore, complimenti, anche noi ci rivediamo prestissimo. So che devi lavorare tanto, 1500 allievi non sono una cosa facile da gestire, ma stai facendo un ottimo lavoro e complimenti e grazie. Ti ringrazio io da musicista. Grazie, noi ce la mettiamo tutta. Vi lascio con un'altra produzione di St. Louis, l'ottimo Natalio Mangalavite, pianista argentino che incontra, credo, un suo connazionale, Martin Brun, un album che si intitola Juego. Il brano è molto divertente, parla del mondo del calcio, si intitola Final do Mundo, anche se l'ho pronunciato alla brasiliana e loro sono argentini. A tutti voi buona giornata, buon pomeriggio e buona musica da Gio Telesforo qui da St. Louis College of Music. Soundcheck. Il suono della musica.